giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici alla parte tecnica. Prosegue il nostro spazio di ascolto e riproposizione di eventi e incontri svoltisi a Padova nel territorio diocesano nel periodo recente. Poi nelle prossime settimane inizieremo anche un riascolto di eventi delle stagioni passate. Siamo al tema della famiglia, in particolare la Amoris Laetitia di Papa Francesco, l'esortazione apostolica post sinodale dopo i due sinodi dedicati dai vescovi proprio al tema della famiglia. Su questa riflessione, su questo tema, è intervenuto al centro universitario di Padova fratel Michael Davide Semeraro, monaco benedettino. Amoris Laetitia, l'amore basta a se stesso. Fratel Semeraro è monaco dal 1983 della coinonia della Visitazione a Rem Notre Dame in Valle d'Aosta. Ha conseguito il dottorato in teologia spirituale all'Università Gregoriana di Roma, coniuga la sua esperienza monastica con l'ascolto delle tematiche che appassionano il cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo e compatibilmente con le esigenze della vita monastica tiene conferenze e accompagna ritiri. Ulteriori dettagli sulla sua attività sul sito www.lavisitation.it. E allora sentiamo il suo intervento su Amoris Laetitia, l'amore basta a se stesso, nell'ambito degli incontri del martedì promossi dal Centro Universitario di Padova in via Zabarella. I giorni della Chiesa. Sono contento di tornare qui dove appunto la sfida, tra virgolette, era stata lanciata, che era un po' anche la conclusione del mio libro Appunti tra un sinodo e l'altro, che finiva proprio con questo augurio: speriamo in bene. Anche perché chi era presente a quell'incontro, abbiamo discusso, abbiamo parlato e poi fondamentalmente ci siamo augurati che la Chiesa fosse in grado, nel suo aspetto anche più istituzionale, di aprirsi ad uno sguardo diverso, ad una percezione diversa, ad una valutazione diversa e ha delle prospettive diverse riguardo tutta una serie di problematiche riguardanti la vita delle famiglie o, come avevo un po' sottolineato, delle case in cui gli uomini e le donne del nostro tempo vivono, soffrono e sperano. Ora, non posso assolutamente, non è pensabile di commentare questo testo, che è un testo, come mi diceva Don Roberto, che lo sta leggendo con un gruppo di persone, è un testo che va letto ed è stata la prima grande raccomandazione che Papa Francesco ha fatto dopo la pubblicazione del testo, che bisogna riconoscere, pur essendo poderoso e non facile, è stato, a differenza delle scadenze solite tra la fine di un sinodo e l'esortazione post-sinodale, è stato consegnato alla Chiesa anche in modo abbastanza celere, proprio per questa urgenza che Papa Francesco ha continuamente sottolineato circa queste tematiche. Allora, rispondo in modo, diciamo così, lapidario alla domanda di Elena. Sì, la Chiesa nel suo aspetto, diciamo così, formale, istituzionale, con questo testo ha superato l'esame di maturità, solo che ci sono dei ritardatari. Ci sono dei ritardatari e direi che ci sono anche, stranamente, degli autorimandati. Ci sono delle persone che dicono noi ci comportiamo come dei rimandati, per cui aspettiamo l'esame di settembre, anche se alla maturità di fatto questo non è possibile, eh? O il secondo appello, come uno che rifiuta. Ci sono chiaramente attualmente nella Chiesa, prima Elena lo metteva in evidenza, la reazione a questo testo non è stata di esultazione da parte di chi si aspettava delle novità più forti, più sostanziali, più decisive. Sicuramente la reazione più forte è stata da parte di coloro che, a mio parere, hanno intuito in modo forte che al di là del fatto che il testo non cambia nulla della dottrina della Chiesa sul matrimonio e su tutto ciò che gira attorno al sacramento del matrimonio, l'atteggiamento è completamente mutato. Chi legge questo testo con l'idea di arrivare al dunque, e chiamiamolo pure bene questo dunque, cioè i divorziati e i risposati possono o non possono fare la comunione, i conviventi sono o non sono in peccato mortale ostinato o meno, e tutta questa serie di problematiche, deve aspettare un sacco di tempo, perché di questi problemi Papa Francesco ne parla solo alla fine. Diciamo, per farvi capire, siamo qui, quindi guardate il testo, bisognerebbe saltare. E Papa Francesco ha detto, per carità, non fate l'operazione di saltare, e cioè di andare in internet, trovare la parola conviventi, comunione, divorziati, trovate il numero, andate direttamente lì e rimarrete delusi. E rimarrete delusi, perché di fatto Papa Francesco, nella parte in cui parla di queste problematiche che hanno scatenato per certi aspetti le discussioni all'interno dei due sinodi, dà delle indicazioni molto semplici e molto precise, in cui fondamentalmente dice che non è cambiata assolutamente la dottrina della Chiesa sul matrimonio. Però, come prima diceva Elena, come mai? Se il Papa in questo documento dice chiaramente che la dottrina della Chiesa sul matrimonio non è cambiata, tutta una serie di personalità, persone, movimenti, realtà all'interno della Chiesa si sono così allarmati. Perché appunto, se c'è chi prega per la conversione del Papa, se c'è chi dice che il Papa sta portando la Chiesa allo sbando, c'è chi dice che ormai siamo alla fine dei tempi e il drago rosso è arrivato e compagnia bella, vuol dire che c'è qualcosa che in realtà è cambiato. Ora, di fatto, come dice Grillo, e ha ragione, condivido pienamente, la grande novità di questo testo è il passaggio epocale e per certi aspetti irreversibile tra un atteggiamento normativo della Chiesa che fa dei pastori della Chiesa, in particolare vescovi e preti, dei funzionari, all'immagine che all'interno della Chiesa abbiamo dei pastori che per l'ordinazione presbiterale o episcopale non sono dei funzionari, sono dei pastori il cui primo ruolo è quello di occuparsi del discernimento degli spiriti. Naturalmente chi conosce un po' di spiritualità, questo discernimento degli spiriti è uno degli elementi, se non l'elemento fondamentale, degli esercizi ignaziani, e chiaramente tutti sappiamo che Papa Francesco è e rimane un gesuita. Dunque, la parola chiave di questo testo è non cambiamo la normativa, ma la normativa rimane quella, la dottrina rimane quella, non ci sono novità per quello che la Chiesa pensa del e sul sacramento del matrimonio, ma come dice già nella prima pagina di questo documento, Papa Francesco dice così: il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. Sono innumerevoli le analisi che si sono fatte sul matrimonio e la famiglia, sulle loro difficoltà e la sfida attuale. È sano, quindi al munus docendi, cioè al ministero dell'insegnamento, si aggiunge l'altro munus, il munus sanandi. La Chiesa non ha ricevuto dal Signore Gesù semplicemente il munus docendi, cioè la responsabilità di insegnare la verità, ma anche ricevuto contemporaneamente il munus sanandi, cioè il ministero di guarire e di accompagnare tutte le sofferenze, soprattutto quelle che toccano l'elemento più profondo della vita, e possiamo immaginare che quelle affettive siano le prime. È sano prestare attenzione alla realtà concreta, perché le richieste e gli appelli dello spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia. Questa è la novità. Fondamentalmente Papa Francesco ci ha dato in questi 4 anni ormai di pontificato, di ministero petrino come vescovo di Roma, 2 documenti fondamentali, la Evangelii Gaudium e l'Amoris Laetitia. E fondamentalmente l'Amoris Laetitia è l'applicazione su un aspetto particolare, com'è l'aspetto, la realtà del matrimonio con tutti i suoi effetti ed espressioni collaterali, ci ha dato un'applicazione di quelli che sono i principi espressi nella Evangelii Gaudium, il cui principio fondamentale, che ha messo in crisi tutta una serie anche di teologi, di vescovi, di cardinali, ma anche di laici, di giornalisti, di pensatori, di filosofi e compagnia, è che la realtà è più importante dell'idea. E fondamentalmente siamo di fronte a un principio di realtà, e soprattutto che l'assoluto è per sua natura relativo, cioè l'assoluto, proprio perché è assoluto, deve necessariamente essere capace di entrare in relazione con le realtà concrete. Ora subito aggiunge nell'introduzione di questo testo: il cambiamento, fedeli all'insegnamento di Cristo, guardiamo alla realtà della famiglia, non all'ideale della famiglia, la realtà della famiglia oggi in tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre. Il cambiamento antropologico, culturale, influenza oggi tutti gli aspetti della vita e richiede un approccio analitico e diversificato. Questo è quanto. Ora, chiaro, c'è tutto questo pezzo che andrebbe letto, ma spero che ci sia un'occasione, oppure mettetelo sul comodino alla sera, almeno 4 righe, nel giro di un anno dovremo farcela. Ora, Papa Francesco rimane fedele all'impianto del suo approccio pastorale. È un uomo che quando dice una cosa si può essere d'accordo, si può essere meno d'accordo. Quando Francesco dice una cosa, poi la fa. E chiaramente il fatto che Francesco, dopo 2 sinodi, è riuscito ad avere il, per un voto, il lascia passare del sinodo, per poter passare da una lettura funzionaria di tutte le questioni inerenti al matrimonio e tutti i suoi addentellati, ad una ricomprensione di discernimento che, pur ribadendo la teoria dogmatica e senza nulla togliere a quello che la Chiesa pensa sia il progetto fondamentale che ogni uomo e donna portano nel proprio cuore, poi si rende conto, prende atto di tutta una serie di impedimenti, difficoltà, complessità, ambiguità concrete che, e lo dice chiaramente in questo testo, non possono essere assolutamente affrontate con una normativa generale. Alla fine del testo, verso la fine del testo, si dice così: se si ritiene, siamo, guardate, ho fatto un salto di 300 numeri esatti, quindi insomma siamo al numero 300, è anche un numero simbolico, se si tiene conto dell'innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle che abbiamo sopra menzionato, i conviventi, i divorziati risposati, i figli avuti in seconde nozze, un accenno minimo sull'omosessualità perché non era l'argomento del sinodo, È comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal sinodo. Questa è una dichiarazione, qualcuno ha detto, ma sapete, è semplicemente un'esortazione apostolica. Qualcuno ha preso questo testo il giorno in cui è stato pubblicato, non faccio nomi, e l'ha messo nel cestino, scatenando una campagna proprio di denigrazione. Una volta quando il Papa parlava anche semplicemente a un Angelus, l'aveva detto il Papa, e quindi per carità. Adesso un Papa che si impegna in un'esortazione apostolica post-sinodale, quindi con un grado abbastanza chiaro, qualcuno dice, ma non è mica un pronunciamento dogmatico, ex cattedra, infallibile, sono le idee di Papa Francesco. Non è assolutamente così dal punto di vista della comunione ecclesiale. Dunque, Francesco dice, non ci si dovesse aspettare dal sinodo o da questa esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, le conseguenze e gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi. Questo è il cuore di questa esortazione. Ma questo è un salto mortale, perché ha messo in subbuglio soprattutto i vescovi e i presbiteri. Infatti, io mi soffermerò oggi solo su questo punto, che mi sembra il punto. Il Papa aggiunge, sempre in questo numero 300, è facile da memorizzare, non si scorda più, quindi numero 300, i presbiteri. Uno non se l'aspetta questo, si aspetterebbe di parlare, che so, dei delinquenti, dei conniventi, dei peccatori. No, i presbiteri hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà utile fare un esame di coscienza tramite momenti di riflessione e di pentimento, e dà delle piccole indicazioni. Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione, attenzione cosa dice, coram Deo, davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote in foro interno concorre alla formazione di un giudizio corretto, concorre, non il sacerdote dà un giudizio, concorre alla formazione del giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere. Ora io vi chiedo scusa, perché forse vi aspettavate, ma il tempo è quello che è, e questo è il punto, a mio parere, su cui dobbiamo riflettere. Ora, il grande dramma della Chiesa Cattolica in questo momento in generale e in merito all'applicazione di questa esortazione post-sinodale di Papa Francesco è che i presbiteri non si possono più e non si devono più nascondere dietro la maschera del funzionario. Cosa voglio dire? Se voi andate, dove andate? All'ufficio dell'anagrafe, vi danno che cosa? Un modulo prestampato. Poi voi chiedete una cosa che non c'è, vi dico, guarda signore, mi dispiace, ma non è previsto, non c'è questa voce, quindi non si può mettere la X. E poi vi dicono, torni un'altra volta, oppure mi dispiace, ma non si può fare niente. Non posso, con grande gentilezza, non posso aiutarla, giusto? Perché non è previsto nel prestampato, nel modulo non c'è questa voce, non c'è questa possibilità. Ora, l'idea su cui noi abbiamo costruito anche il ministero presbiterale in questi ultimi anni, è che tu vai dal prete, gli chiedi una cosa, dici: guardi, non posso, non mi è concesso, non è nel prestampato. Ora Papa Francesco chiede ai preti, cioè coloro che non sono semplicemente gli impiegati di un ufficio, ma hanno ricevuto per l'imposizione delle mani una porzione di Spirito Santo per poter esercitare il ministero presbiterale in persona Christi, cioè significa non solo con il potere, ma con il cuore di Cristo Signore, secondo la logica delle parole e dei gesti che troviamo nel Vangelo, questi pastori non possono più dire: guardi, già che non c'è nel prestampato, io non posso aiutarla, ma devono, sono chiamati a mettersi accanto alle persone che chiedono qualcosa a questo riguardo ed entrare in un cammino di discernimento, che secondo questa esortazione può anche portare al conforto e al sostegno dei sacramenti laddove in questo momento si dice che non possono essere dati. Ma è una responsabilità pastorale e non funzionale che ogni prete, in forza della sua ordinazione presbiterale, deve prendersi davanti a caso per caso, imbarcandosi in un processo di discernimento. Mi spiego? Ed esercitando il suo ministero non perché a un certo punto da qualche parte digitando un codice X, Y, Z uguale ammesso, non ammesso. Cioè, purtroppo non c'è nessun... Ora qualcuno dice: ma prima o poi da Roma ci manderanno dei moduli, non arrivano. Anche perché in questo testo dice: ci sono delle indicazioni del vescovo, prudenziali, indicazioni di discernimento, di elementi, anche perché del vescovo, perché il vescovo conosce la sua chiesa, dovrebbe, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qualcuno dice, l'ho sentito con le mie orecchie, per piacere, non muovetevi, non fate niente, aspettiamo disposizioni da Roma. Ma la disposizione da Roma è questa, e per la prima volta la disposizione qual è? Non ci sono disposizioni. Voi capite che un clero abituato a vivere, poverini, mi ci metto anch'io, abituati a vivere, dire che tranquilli, ho ricevuto disposizioni, ammesso, non ammesso, e questa è una tragedia, Anche perché a conti fatti, lo dico contro di me, perché io faccio parte della casta, quindi non è che parliamo di chissà chi, a conti fatti nella Chiesa Cattolica, per vari motivi che non sto qui a spiegare ma che non sono difficili da immaginare, abbiamo un clero impreparato a fare a questo tipo di lavoro, nonostante il fatto che l'ordinazione presbiterale dovrebbe portare proprio a questo tipo di ministero. Mi spiego? Quindi il dramma è questo. È questo. Vale a dire, qual è il passo che questo testo, questa esortazione postsinodale, ha fatto fare alla Chiesa Cattolica? La dottrina è quella. Anche perché stamattina ero con 120 ragazzi tra i 17 e i 19 anni di un istituto tecnico di Valdagno, è stata un'esperienza bellissima, il tema era la sessualità, immaginate un po', potete immaginare, è stata una cosa meravigliosa. E appunto, parlando questi ragazzi, tutti con ormoni a mille, potete ben immaginare, parlando questi ragazzi, a un certo punto uno mi ha detto: ma senta, la Chiesa Cattolica è proprio pesante sulla sessualità, perché non ci permette di fare niente. Poverino, aveva anche ragione. E io ho detto: sì, è vero ed è falso, perché io vi guardo, 120 ragazzi e ragazze, qual è il sogno più grande che voi avete, come tutti, a 17-18 anni? Di incontrare l'amore della vostra vita, di incontrarlo il più presto possibile, che sia quello giusto, che sia ricambiato e che duri per la vita. Chi è che dice no, vorrei innamorarmi per 3 mesi? Dice, no, io mi innamoro 3 mesi, da 3 mesi a 3 mesi. Ogni 3 mesi mi innamoro, smetto di essere innamorato e poi pausa, mi rinnamoro. Ma nessuno pensa questo, almeno nell'adolescenza, magari in tarda età. Ma nell'adolescenza, se uno già si affaccia alla vita con questo programma, è una forma di suicidio, o no? Per cui quello che di fatto la Chiesa propone non è che è proprio una cosa astrusa, di fatto è il desiderio che ciascuno di noi porta, amare, essere amato, una persona, quella giusta, per sempre. Poi le cose si complicano, per carità. Appunto, la Chiesa non dice una strampalaggine, dice qualcosa che corrisponde profondamente, non uso la parola alla natura, perché questa parola è diventata ambigua, ma alla struttura del nostro essere umano, che ci rende un pochettino diversi dagli animali, pochettinino. E poi si rende conto che ci sono tutta una serie di problematiche legate a tutta un'altra serie di cose che entrano in gioco. Ora, l'aspetto dogmatico, dottrinale, non viene toccato, perché in realtà non è da toccare, perché sarebbe come cambiare sogno sulla nostra umanità, che poi ci appartiene. Però dal punto di vista di Papa Francesco, diciamo che la speranza di una possibile gestione adeguata di tutte queste cose non è più affidata ad una normativa chiara, generale e che viene applicata in modo funzionario a tutte le situazioni, salvo riuscire a dimostrare alcune volte spalmando dell'olio sui vetri e cercando di arrampicarsi che c'è una nullità in radice, in intenzione, si arriva al peccato originale, via via che uno va indietro, alla fine si arriva al peccato originale e poi si fa anche fatica, anche perché ci sono persone che non accettano di dire che io quando mi sono sposato ero sotto l'effetto dell'oppio. No, dice io c'ero, solo che dopo mi sono accorto che non c'ero. Però c'ero. Questo modo di guardare sempre al passato e non alla vita. Ora, come ne usciamo da questa storia? Sarà dura perché ci siamo già divisi in 2 categorie. Quelli che aspettano delle indicazioni che non arriveranno, perché non sono previste, al massimo sono previsti degli orientamenti, ma i preti, i pastori, sono chiamati a prendersi la responsabilità di accompagnare le persone a prendersi la responsabilità. E quando mai nella Chiesa vi hanno detto che avevate qualche responsabilità da prendervi? Ci hanno sempre detti che chiedi e ti dirò cosa fare. E il tuo dovere qual è? Fai esattamente quello che ti dico. Giusto? Quindi è chiaro che c'è qualcuno che è in crisi, perché questa cosa è una rivoluzione più che copernicana. Non so se qualcuno di voi ha seguito il dibattito che c'è stato quest'estate, tra l'altro poi era a Rem Notre Dame in vacanza, quindi ho potuto anche fargli una battuta più personale, tra Andrea Grillo e Aldo Maria Valli, su quella questione non solum sedetiam. Aldo Maria Valli, stranamente, dice che questo documento è l'abominio della desolazione, perché il Papa in questo documento dice non solum sedetiam, cioè dice non solo è così, ma anche, vale a dire c'è un principio che viene continuamente contraddetto e questo è il trionfo del relativismo. Questa è la sua, naturalmente Andrea Grillo si è buttato a capofitto in questa situazione, qualcun altro poi si è buttato pure dentro, Ma da questo punto di vista ritengo che è comprensibile questo sconcerto. Anche perché se noi accogliamo o accogliessimo fino in fondo la provocazione di questo testo, abbiamo due cose che possiamo fare, due problemi o due soluzioni. La prima è appunto renderci conto che ormai il ministero pastorale non è più l'applicazione fredda e precisa di norme oggettive senza che io ci debba mettere niente di mio. Dico, mi scusi, ma io questo modulo non posso passarlo perché il computer non me lo legge. Non c'è il codice. Poi c'è l'altro aspetto però, che è più grave a mio parere. E, sentite, io lo dico, poi vediamo. L'aspetto più grave è un altro, che se le cose stanno così, un qualsiasi vescovo dovrebbe essere costretto a guardare il proprio clero e dire, ma di questi 200 preti che ho nella diocesi di Padova, quanti sono capaci di fare questo tipo di lavoro? Questo è il vero problema. E quindi, a mio parere, e mi fermo qui, perché adesso possiamo... si può dire di tutto, ma secondo me questo è il nocciolo del problema. Primo, renderci conto che Papa Francesco ci restituisce tutto sommato l'integralità della dottrina, il munus docendi, è l'integralità della modalità evangelica di applicare la dottrina, il munus sanandi, è proprio coloro che dovrebbero essere in grado per il loro ministero e la loro ordinazione presbiterale di fare queste due cose sempre insieme, molti di costoro non sono capaci, anche perché non sono stati abituati a fare questo tipo di lavoro. Mi spiego? Ora, è chiaro che all'interno della Chiesa questa opera di discernimento degli spiriti, delle situazioni, delle particolari storie, quindi la capacità di ascoltare, di comprendere. Finora questo tipo di lavoro si faceva, sapete dove? Nel tribunale canonico, dove ti spogliavano nudo e ti facevano un interrogatorio per capire se il tuo matrimonio era valido o nullo. Papa Francesco dice, ma no, questo si può fare in un tribunale quando uno pensa che ci sia una nullità da dimostrare, ma si fa nella direzione spirituale o nella confessione sacramentale, cioè in termine tecnico, nel foro interno dove un presbitero si prende carico di accompagnare una persona o una coppia a cercare di leggere la propria storia, di discernere davanti a Dio le proprie responsabilità, le proprie colpe, le proprie innocenze e decidere un reale cammino di conversione che non presuppone necessariamente la negazione del punto della storia in cui ti trovi. Per esempio, tre figli dopo un secondo matrimonio. E quei tre figli del secondo matrimonio non sono mica figli del diavolo, sono ancora figli di Dio. Una volta sapete cos'erano quei figli lì, Erano figli illegittimi, i quali per esempio non potevano essere ordinati preti. Un figlio illegittimo era un impedimento. O se entrava in un monastero di monache, poteva fare solo la conversa, perché era una figlia illegittima. Tra figlia illegittima e figlia del demonio ci passava molto poco, Voi capite che per noi questo è impensabile, C'è un'evoluzione, un incremento di intelligenza evangelica e umana che rende impensabili certe cose che sembravano, chi ha visto Magdalene, il film sulle questioni delle donne in Irlanda, lo si vede bene. Ora capite, ci rendiamo conto di come dal punto di vista dei laici ci vuole molta pazienza, a mio parere, e molta carità nei confronti della casta sacerdotale o del corpo presbiterale. Speriamo che sia più un corpo presbiterale che una casta sacerdotale. Perché? Perché è chiaro che per i presbiteri a cui si chiede questo tipo di lavoro non è un lavoro facile, anche perché la maggior parte di noi, mi ci metto anch'io, siamo impreparati e non siamo stati formati a questo tipo di responsabilità che crea responsabilità. Ma siamo stati formati, come dice in un bellissimo titolo, in un bellissimo libro, Eugen Levermann, a essere funzionari di Dio. Ora, la Chiesa non è un luogo di funzionari, è un luogo di discernimento. Già Giovanni XXIII, in una lettera del 1923, mentre era diplomatico della Santa Sede, diceva: perché le questioni vanno affrontate caso per caso, perché ciò che va bene in un caso può essere deleterio in un altro. 1923. E sempre però Angelo Giuseppe Roncalli, che poi diventa Giovanni XXIII, e che è stato la rovina della Chiesa Cattolica, chiaro, perché ha indetto un concilio che ha rovinato tutto. Questo è chiaro, perché se la Chiesa Cattolica funziona come appunto un corpo di funzionari, stavamo meglio quando stavamo peggio. Se la Chiesa Cattolica, voluta da Cristo, funziona come un corpo di ministeri che cospirano reciprocamente per il bene, la salvezza e la pace delle anime, delle menti e dei corpi, la cosa diventa molto più complicata. Mi rendo conto che non so come fa un vescovo. Come fa un vescovo? Questo, se avessi l'occasione, porrei questa domanda a Papa Francesco. Come fa un vescovo, guardando i suoi preti, a dire: tra di voi chi è disposto e capace di fare questo tipo di servizio? Perché non tutti sono disposti e pochi sono capaci. E per evitare ulteriori disastri è necessario che il primo discernimento sia fatto proprio in sede di chi può e se la sente di assumere questo ministero di accompagnamento e di discernimento e chi non se la sente o non è in grado di farlo. Quindi vi rendete conto che la situazione è una situazione molto delicata. Detto questo, va tutto bene. Nel senso che non dobbiamo neanche spaventarci, dobbiamo essere anche coraggiosi. Il Signore ci dice: non temete. Vale a dire, quando c'è un incremento di intelligenza, di sapienza e di vita, normalmente le cose diventano più complicate. Il fatto che ci troviamo in un momento in cui le cose sono diventate più complicate, questo ci deve far sperare. E da un punto di vista almeno dei laici che sono all'interno della Chiesa e che vivono serenamente la loro appartenenza ecclesiale, dobbiamo cospirare, aiutare e sostenere i pastori perché possano assumere questo compito in modo sereno e in modo, diciamo così, adeguato. Se qualcuno si aspetta appunto qualche modulo, non arriva, e se arriva non è giusto, perché fondamentalmente passiamo da un regime di regime a un regime di discernimento spirituale che tocca le situazioni concrete e in cui finalmente la persona, con la sua storia e con la sua sofferenza, è il centro dell'attenzione e della cura. Carissimi, pregate per noi che ricordiamo a voi, nel senso che forse mai come in questo momento la categoria della Chiesa che si trova nella situazione più, più difficile, per tanti motivi, è quella dei presbiteri e dei vescovi, per carità. Bene, questo è quello che mi sentivo di dirvi e mi sembra quello, a mio parere, che è l'ultimo dei pareri da sentire, che è il punto. Perché tutto il resto rischia di essere, per carità, uno può dire, ma io non sono d'accordo, a me non piace, andava meglio quando tutto era chiaro, e l'altro dice, no, finalmente qualche possibilità si apre, ma entriamo in un, fondamentalmente, l'Evangelii Gaudium come testo programmatico del ministero petrino di Papa Francesco. L'Amoris Laetitia come applicazione ad un ambito preciso e particolare, pur nelle sue costellazioni assolutamente pluriforme della vita nel matrimonio, fondamentalmente ci fanno uscire da quella ambiguità ermeneutica del Concilio Vaticano II, che è durata almeno 30 anni, e ci riporta al punto di partenza dell'intuizione del Concilio Vaticano II, che il cammino della Chiesa non è più l'istituzione, ma la persona. Questo è il risultato, dopo 50 anni, di un lavoro, di un'intelligenza e di tante sofferenze nella Chiesa. Se fino a Papa Francesco si diceva il Concilio ha detto ma, il Concilio pensa però, il Concilio ci ha detto ma, forse no. L'atteggiamento di Papa Francesco, diamo per concludere l'anno giubilare, che è giubilare della fine del Concilio Vaticano II, ci fa uscire da questa ambiguità ermeneutica. Il Concilio Vaticano II è come il Concilio di Efeso. Vai a dire, quando nel 431, giusta la data? Sì, la Chiesa arriva a dire che una donna, Maria, non è la madre di Cristo, non è semplicemente la madre di Gesù, è la Theotokos. Oggi se facessimo un concilio di Efeso, non so, con tutti i filosofi, gli psicologi, i sociologi, gli etnologi e gli etologi, non so se riusciremo a dire cose del genere, che Maria di Nazareth è la Theotokos, ma comunque così è, ci piaccia o non ci piaccia, Theotokos, Idem, il Concilio Vaticano II è questo momento della storia della Chiesa in cui l'aspetto istituzione si è trasformato in attenzione pastorale alle persone. Ci siamo barcamenati per 50 anni, adesso è chiaro che la direzione è questa e da questa direzione non si torna indietro. C'è qualcuno che è molto a disagio. Io vi dico con grande semplicità, si soffre a turno. A chi la tocca in modo molto... Allora, per carità, si soffre a turno nella vita, nel mondo e anche nella Chiesa. Grazie. I giorni della Chiesa. Era fratel Michael Davide Semeraro, monaco benedettino della Coinonia della Visitazione a Rem Notre Dame in Valle d'Aosta, intervenuto sul tema Amoris Laetitia, l'amore basta a se stesso, incontro promosso nel ciclo degli incontri del martedì dal Centro Universitario di Padova in via Zabarella. Ringraziamo lo stesso Centro Universitario per aver messo a disposizione la registrazione audio di questo intervento, altri ne seguiranno nelle prossime settimane. Grazie a Didaici in regia, a voi per l'ascolto, da Mirko Cavallin, buon proseguimento con Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.